Do il buongiorno a Marco Rasconi, il direttore nazionale di WildDM. Buongiorno Marco, benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno e grazie dell'invito. Allora Marco, siamo al 60° anno di WildDM, quindi come avete festeggiato e qual è, insomma, il bilancio della fondazione dopo tutti questi anni di lavoro? Allora, abbiamo festeggiato cercando da un lato di ricordare tutto quello che abbiamo fatto e per ricaricarci per i prossimi 60 anni e dall'altro abbiamo un attimino fatto il punto su quelli che sono gli obiettivi che dobbiamo avere in mente per i prossimi appunto anni di lavoro, perché l'associazione da sempre ha l'obiettivo di sconfiggere la distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari. Quindi o attraverso la ricerca, noi siamo stati fondatori di Teleton, oppure attraverso le battaglie sociali regalando a tutti le pari opportunità. Questa era un po' l'idea che ci siamo messi in testa per questo compleanno. A livello pratico, questi 60 anni abbiamo utilizzato per fare una serie di webinar di racconto di quelle che sono le situazioni più importanti legate ovviamente alla distrofia muscolare, ma abbiamo anche poi cercato di raccogliere fondi attraverso la nostra giornata nazionale con la latta di caffè Chicco d'Oro e la latta appunto decorata poi da Mauro Biani. Qui su Radio Città Fujiko abbiamo sempre parlato di WildDM a livello, diciamo, bolognese, ma a livello nazionale che supporto dà la vostra associazione? A livello nazionale è chiaro che dobbiamo avere uno sguardo anche più di cambiamento nazionale. Faccio un esempio, noi come dicevo prima costruiamo pari opportunità. Sicuramente con Bologna avrete raccontato le attività sul territorio per garantire le pari opportunità alle persone con distrofia muscolare. Noi facciamo in modo, o meglio cerchiamo di fare in modo, collaborando col Ministero, collaborando con le associazioni di secondo e di terzo livello, come la Federazione Italiana Superamento Handicap, cerchiamo di garantire, diciamo, di mettere in moto tutti quei meccanismi in modo che quello che riusciamo a costruire a Bologna non sia solo a Bologna, ma sia a disposizione di tutti, perché non possiamo permetterci che chi nasce in una certa provincia sia più fortunato di chi nasce da un'altra parte, se ha una patologia neuromuscolare. E poi ovviamente mettiamo in atto anche dei progetti a livello nazionale, adesso siamo nel pieno, anzi siamo quasi in chiusura del progetto Scuola di Inclusione che ci ha visto sensibilizzare le scuole e le comunità e realizzare parchi gioco inclusivi. Che cosa si può ancora continuare a fare dopo appunto 60 anni di lavoro con WildDM? Quello che possiamo fare noi come WDM è intanto cercare che la diffusione delle pari opportunità sia per tutti, quindi vada anche a trovare il distrofico nel paesino disperso, perché è corretto che sia così. Dobbiamo continuare a combattere anche su nuovi orizzonti, perché abbiamo i vecchi orizzonti che sono sempre le barriere architettoniche, sempre l'inclusione scolastica, eccetera, ma è chiaro che adesso con una ricerca che funziona, la speranza di vita aumentata di circa 30 anni per chi è affetto dalla patologia più grave, che è la distrofia muscolare di Duchenne, dobbiamo costruire 30 anni di qualità della vita in più. Quindi ci deve essere l'inserimento lavorativo, la possibilità di andare a vivere da soli, l'accesso al lavoro, l'accesso alla casa, la possibilità di ragionare sul durante noi e dopo di noi, per accompagnare le famiglie che si fanno carico dell'assistenza dei ragazzi a un'emancipazione, proprio perché la qualità della vita della persona con distrofia muscolare non è solo della persona, ma è di tutta la famiglia e mi verrebbe da dire che un paese che accoglie è più fragile, insomma, la qualità della vita migliora per tutti. Perfetto, Marco, io ti ringrazio per averci dato così uno sguardo un po' più ampio nazionale su WildDM. Io ringrazio voi e veniteci a trovare in tutte le sezioni. Ciao Marco, grazie. Ciao, ciao, ciao.